su M2O. Esperimenti emozionali. Suonati da Gigi D'Agostino. E vivo qui da quando ero bambino. Credevo di parlare col demonio, così mi hanno chiuso 40 anni dentro un manicomio. Ti scrivo questa lettera perché non so parlare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E mi stupisco se provo ancora un'emozione, ma la colpa è della mano che non smette di tremare. Io sono come un pianoforte con un tasto rotto, l'accordo dissonante di un'orchestra di ubriachi. E giorno e notte si assomigliano nella poca luce che trafigge vetri opachi. Me la faccio ancora sotto perché ho paura. Per la società dei sani siamo sempre stati spazzatura. Puzza di piscio e segatura, questa è malattia mentale e non esiste cura. Ti regalerò una rosa rossa per dipingere ogni cosa. Una rosa per ogni tua lacrima da consolare. E una rosa per poterti amare. Ti regalerò una rosa bianca come fossi la mia sposa. Una rosa bianca che ti serva per dimenticare ogni piccolo dolore. Su M2O. Sentieri italiani. Elaborati da Gigi D'Agostino. I matti sono punti di domanda senza frase. Migliaia di astronavi che non tornano alla base. Sono dei pupazzi stesi ad asciugare il sole. I matti sono apostoli di un Dio che non li vuole. Vi fabbrico una neve col polistirolo. La mia patologia è che sono rimasto solo. Ora prendete un telescopio, misurate le distanze. Guardate tra me e voi chi è più pericoloso. Dentro i padiglioni ci eravamo di nascosto, ritagliando un angolo che fosse solo il nostro. Ricordo i pochi istanti in cui ci sentivamo vivi, non come le cartelle cliniche stipate negli archivi. Dei miei ricordi sarai l'ultimo a sfumare, eri come un angelo legato ad un permosifone. Nonostante tutto io ti aspetto ancora, e se chiudo gli occhi sento la tua mano che mi sfiora. Ti regalerò una rosa rossa per dipingere ogni cosa. Una rosa per ogni tua lacrima da consolare. E una rosa per poterti amare. Ti regalerò una rosa bianca come fossi la mia sposa. Una rosa bianca che ti serva per dimenticare ogni piccolo dolore. Mi chiamo Antonio, sto sul tetto. Cara Margherita, sono 20 anni che ti aspetto. I matti siamo noi quando nessuno ci capisce, quando pure il tuo migliore amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare, sa volare. Le musiche e i ritmi di Gigi D'Agostino. La magia, i colori. Un cielo azzurro e a volte grigio. Ogni giorno alle 2 del pomeriggio. Se vuoi emozionarti, devi sintonizzarti. M2O. Il cammino di Gigi D'Agostino. Dai un po' sulle mani. Ma se volete mandare le vostre dediche o volete far sentire il vostro pensiero, mandatemi il vostro SMS al numero 333-64-67-662. Capito? No, perché mi piace essere preciso. Aprile, in ogni dove, lento, violento e altre storie. Il doppio CD di Gigi D'Agostino. Ora la musica c'è. Stiamo percorrendo il cammino di Gigi D'Agostino e altre storie. Lento, violento. Il cammino di Gigi D'Agostino. Su M2O, Gigi D'Agostino. Lento, violento. Movimento. Sentimento. Movimento. Movimento. Sta propagando a macchia d'olio, divenendo un emblema sociale e ideologico di alternativa culturale alla globalizzazione. Lento, violento, lento, violento, lento, violento. E altre storie, storie. Lento, violento, lento. Violento, lento, violento. Dip, divenendo un emblema sociale ideologico di alternativa culturale. Ideologico di alternativa culturale. Bella da Natale, bella da Natale, bella da Natale, da Natale, da Natale, da Natale, da Natale. Bella da Natale, bella da Natale, bella da Natale, da Natale, da Natale. State ascoltando una musica bella da Natale, bella da Natale, bella da Natale, da Natale, da Natale. E io sono Gigi D'Agostino, musicista tanzerino. E chi si è sintonizzato adesso è bene che sappia. Sto suonando più.

le 2 del pomeriggio. Suona Gigio. Gigi. Gigi. Gigi. La scienza del vissuto degli uomini non è una scienza esatta, bensì un'esperienza legata alla contingenza e un processo che evolve ininterrottamente. De che cazzo habla? Alla contingenza è un processo che evolve ininterrottamente. Sta propagando a macchia d'olio.

densamente, i corpi stretti in un viaggio della mente. Su M2O. Esperimenti emozionali. Sognati da Gigi D'Agostino. Il cammino di Gigi D'Agostino. Musica che unisce. Digidag è un suono puro. Col suo tamburo stai sicuro. Il cammino di Gigi D'Agostino. Digidag è un suono puro. Col suo tamburo stai sicuro. Dal 27 aprile, in ogni dove, lento, violento e altre storie. Il doppio CD di Gigi D'Agostino. Ora la musica c'è. Gigi D'Agostino. Quante gocce di rugiada intorno a me, cerco il sole ma non c'è. Dormi ancora alla campagna, forse no, e sveglia mi guarda, non so. Speed. sono Gigi D'Agostino. E altre storie. Quando dico altre storie, intendo dire e tutto quello che desidero raccontare musicalmente. Quello che desidero, quello musicalmente. Quando dico altre storie, intendo dire quello che voglio dire, ma che non riesco a dire. Cioè. Ciao.